Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, noi ci siamo, c'è Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, una garanzia, Laura Vanossi in redazione, i titoli del nostro sommario, possiamo partire. Acufeni, sintomo o inganno? Doping della mente, cosa c'è di vero? Non ti orienti? Ti diciamo noi la strada. C'è chi sente un fischio sottile, simile un po' a quello della pentola a pressione, per intenderci. C'è chi invece avverte un ronzio, come se avesse una mosca, un moscerino che gli ronza intorno. Chi ancora sente il cuore che pulsa dentro l'orecchio. E l'elenco potrebbe continuare a lungo, ma credo senza riuscire a descrivere in modo esaustivo tutta quella gamma di suoni che molte persone avvertono in uno o in entrambe le orecchie, che vengono chiamati acufeni. Se ne soffrite, 800 24 00 24. I messaggi al 349 238 6666. Oggi vogliamo raggiungere due obiettivi. Il primo, capire se il suono che avvertiamo è un sintomo, quindi un segnale, una spia di una patologia o di un disturbo che vedremo potrebbe non essere esclusivamente uditivo, oppure se l'acufene è un inganno, come una specie di scherzetto della mente. C'è una teoria interessante a questo proposito di cui parleremo tra poco. Il secondo obiettivo è fare il punto sulle terapie oggi a disposizione per mettere a tacere questi suoni, per annullare questi rumori e tornare a godersi il silenzio che chi soffre di acufeni spesso non ha più il piacere di ascoltare. Ci aiuta oggi il professor Guidetti, che è tornato a trovarci, e come sempre nel corso della trasmissione andremo anche a collegarci con vari esperti che ci aiuteranno un po' a completare il puzzle di informazioni necessarie per occuparci della nostra salute in modo completo. Professor Guidetti è responsabile del servizio di audiovestibologia e rieducazione vestibolare dell'azienda USL di Modena. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno. Professore, come ci muoveremo? Iniziamo a individuare un po' la strada per centrare il primo obiettivo. Ok, beh, intanto allora diciamo che l'acufene è veramente un'allucinazione, cioè è un qualcosa che non esiste in realtà. Di solito lo sente solo il paziente ed è pressoché impossibile che qualcun altro avverta il rumore che il paziente lamenta. E che rappresenta quasi sempre un segnale d'allarme, ma è un allarme che in genere si riferisce a una situazione non preoccupante. Tant'è vero che tradizionalmente, no, si diceva: senti un rumore all'orecchio, non ti preoccupare, è solo qualcuno che ti pensa. Questa è una tradizione popolare, sì. La dice lunga sul rapporto gravità e sintomo. Quando diciamo sintomo intendiamo per esempio che può essere il primo segno per esempio di una patologia, come un aumento di pressione, uno sbalzo di pressione, sì, una sofferenza di varia natura del nervo uditivo oppure delle cellule dell'orecchio interno. Quando diciamo inganno invece facciamo riferimento a quello che adesso si definisce un po' come il generarsi all'interno del cervello di un rumore di solito nato per compensare l'assenza di segnali di una certa frequenza sonora dovuta a una perdita cronica di alcune cellule dell'orecchio interno che devono leggere quelle certe frequenze, non so, gli acuti o i suoni gravi. È come se il cervello provasse a generare quello che non gli arriva più, quel segnale che non gli arriva più. Altre volte si tratta invece, sempre tra virgolette, sotto la voce di inganno, di un'amplificazione di rumori fisiologici del corpo provocato per esempio dalla chiusura della tuba di Eustachio, quel canale che c'è fra naso e orecchio, tipico per esempio del raffreddore. Ecco, queste sono le situazioni, chiamiamole di inganno. Ma abbiamo detto che vogliamo anche parlare delle terapie oggi a disposizione, professor Guidetti, per spegnere questi rumori, e credo che questo aspetto interessi in modo particolare tutte le persone e sono tante, almeno da quelle che vedo dalle mail che mi arrivano, che si sono sentite dire dal medico: si rassegni, cerchi di fare finta di niente. Le terapie ci sono tante, le passeremo in rassegna, vogliamo anticiparle? Sì, possiamo dire che ci sono due tipi di comportamento terapeutico. Sì. Il primo è cercare di rimuovere le cause quando riusciamo a identificarle. Il secondo è quando non ci si riesce, ed è possibile che in molti casi non ci si riesca, dipende insomma da quanto è durata sta malattia, insomma, da qual è la causa, se è facile da trovare oppure no. Dicevo, in questi casi quando non lo si trova bisogna insegnare al cervello a non ascoltare il rumore. Questo è un po' più complesso, ma ci si può riuscire. Allora, ci scrive Vito da Pisa: tra gli acufeni e la voce brontolante di mia moglie, mi tengo gli acufeni. Se voi invece volete liberarvene, seguiteci, andremo a cercare di individuare qual è la causa e parleremo delle terapie. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Ogni settimana, ogni giorno, arrivano notizie che vengono riprese prontamente da TV, radio, giornali, che riguardano la nostra salute. Alcune di queste lasciano il segno, alcune in positivo, altre in negativo. Alcune aggiungono sapere, informazione, altre invece aggiungono solo confusione. Per questo ho chiesto la collaborazione del professor Remuzzi, che come coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo ci ha dato la sua disponibilità a commentare le notizie più interessanti per aiutarci a leggere nei tempi giusti, con occhio critico. È passata qualche settimana da quando, ad esempio, i giornali hanno riportato un articolo di una prestigiosa rivista scientifica americana su quello che viene ormai definito il doping della mente. Tutto parte dalla constatazione che molti studenti americani facciano uso di farmaci per aumentare alcune performance intellettuali. Ma con quali rischi e soprattutto con quali risultati? Professor Remuzzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Tutto parte da un lungo commento sulla rivista Nature, una rivista che si occupa di scienza, non solo di medicina, è una delle riviste mediche più importanti del mondo. Dice: verso un uso responsabile dei farmaci che aumentano la memoria e l'intelligenza. Allora, l'idea che pervade questo editoriale è, insomma, questi farmaci ci sono, usiamoli, perché non li usiamo? In fondo facciamo tante altre cose per stare meglio. Prendiamo il caffè, per esempio, gli sportivi cercano di aumentare comunque le loro capacità attraverso i farmaci, perché ben venga qualcosa che serve anche per la memoria o per l'intelligenza. Però, diciamo, ci sono questi farmaci? Allora, come abbiamo detto, parte tutto dall'utilizzo di questi farmaci da parte degli studenti americani. Che cosa usano? Usano dei prodotti, per la verità, molto vecchi. Prodotti che gli studenti hanno sempre usato, le anfetamine. Poi ci sono dei farmaci che vengono impiegati per il deficit di attenzione da iperattività dei bambini, quello si chiama Ritalin, il nome chimico è metilfenidato, un nome un po' complicato, forse Ritalin l'abbiamo più nelle orecchie. È un farmaco che migliora l'attenzione nei bambini che hanno un deficit di attenzione, abbastanza poco peraltro. Che cosa sappiamo della possibilità che aumenti l'attenzione in uno che non ha deficit di attenzione, quindi che normalmente sarebbe già attento? Difatti non sappiamo nulla. Ci sono, gli studenti americani utilizzano anche dei farmaci che fanno stare svegli. Una volta si faceva, quelli che facevano l'esame di maturità, c'era la mamma col caffè, con l'uovo sbattuto. La filosofia è un pochino la stessa. Quello lì si chiama Provigil. Il nome chimico è Modafinil, ancora un nome difficile da memorizzare. Si usa per quelli che dormono troppo e allora quello li tiene un pochino svegli. Oppure c'è un farmaco che si utilizza per l'Alzheimer che prendono gli studenti americani. Quello aumenta l'acetilcolina nel cervello e dà qualche risultato di miglioramento della memoria in persone con l'Alzheimer. Ma se uno l'acetilcolina ce l'ha normale, serve aumentarla? Probabilmente no, o comunque non lo sappiamo. Quindi, mi scusi professore, sono tra l'altro farmaci pensati per persone che hanno una malattia, non pensati per persone sane. Perfetto, sono farmaci pensati per una malattia e non c'è nessuno studio, questo è il punto, non c'è nessuno studio. Il ragionamento di Nature e tutto questo commento e tutto il fatto che ci sono problemi, noi consideriamo che non sia morale o che ci sia, insomma, uno non dovrebbe ricorrere ai farmaci ma dovrebbe fare lui da solo quello che fa con la volontà. Invece perché non prendere i farmaci se la strada dei farmaci è più semplice? Sì, può essere un ragionamento che possiamo anche condividere. Quando avremo dei dati e quando avremo dei farmaci, in realtà questi sono farmaci relativamente vecchi che si usano per altre indicazioni, non sappiamo nulla della loro capacità nei soggetti normali di indurre le stesse modificazioni positive, che peraltro sono molto modeste, che inducono in chi ha deficit di attenzione, in chi si addormenta facilmente, in chi ha l'Alzheimer. E non ci sono studi sul soggetto normale. E poi questi sono farmaci che in generale hanno effetti collaterali che vanno da effetti molto semplici sul sistema nervoso, tipo, mettiamo, per certi farmaci la loquacità, la nausea, i tremori, la sudorazione, l'insonnia, disturbi intestinali, irrequietezza. Se uno poi ne abusa, i disturbi diventano ancora più importanti, possono esserci sudorazioni, tachicardia, allucinazioni, delirio, fino addirittura a collassi o ipotermia per eccessi di qualcuno di questi farmaci. Allora, vale la pena di correre dei rischi anche piccoli di effetti collaterali che possono essere lievi o gravi, a seconda di quanto uno ne impiega, per un effetto di aumentare la memoria, per non parlare dell'intelligenza, quello veramente siamo lontanissimi, che forse non è nemmeno sicuro nel soggetto normale, probabilmente no. Professore, è meglio non crearsi illusioni, insomma le capacità cognitive hanno bisogno comunque sempre di una costante applicazione e di far soprattutto affidamento alla volontà e anche alla fatica di apprendere. Alla fine credo che è la volontà, la voglia, il desiderio, gli stimoli, la curiosità che aiuta memoria e intelligenza. Io per esempio ho pochissima memoria per quello che non mi interessa e ho abbastanza memoria, anche diciamo moltissima memoria, per quello a cui sono davvero interessato, e penso che questo sia per la maggior parte delle persone. Aver memoria o non aver memoria credo sia un concetto di fatto molto relativo. Io credo che noi non dobbiamo illudere che esiste la possibilità di aumentare la memoria oggi o le capacità cognitive. Noi abbiamo adesso il compito eventualmente di fare molta ricerca su questi farmaci e vedere se la ricerca ci dà di fatto delle risposte positive. Allora professore, io le auguro una buona giornata, la ringrazio e ci sentiamo presto per una buona nuova notizia. Buona giornata a voi. Grazie professore. Buongiorno. Pronto soccorso. Ed eccoci tornati ad occuparci del tema del giorno, parliamo di acufeni. Molti ascoltatori mi stanno scrivendo che cosa si nasconde dietro questo nome, che cosa significa. Beh, sono fischi, ronzii, cascatelle, pulsazioni che noi che alcune persone avvertono in uno o in entrambe le orecchie. Professor Guidetti, possiamo descriverli così, suoni, alcuni li ha definiti fantasma, che le persone avvertono e che diventano insopportabili quando c'è silenzio. Sì, diciamo che si può dire che questa è la definizione descrittiva corretta, certo. Le malattie che lo possono generare sono tantissime, vanno dal banale tappo di cerume che chiude l'orecchio al raffreddore che chiude la tuba di Eustachio, alle malattie della parte interna dell'orecchio, rarissime quelle del nervo, cioè del filo che dall'orecchio porta i segnali al cervello, rarissime come malattie del cervello. E qualche altra volta è legata a dei disturbi come muscoli tesi nei soggetti che hanno l'artrosi cervicale o che hanno dei problemi di masticazione, altre volte ancora esprime uno stato d'ansia e che rende più sensibili alle sensazioni, che ai rumori diciamo interni dell'orecchio, come nel caso delle pulsazioni. Tanta gente dice sento la pulsazione del cuore, io dico sempre scherzando è meglio sentirla che non sentirla. Tante volte l'espressione è solo di uno stato di tensione. Senta professore, come facciamo ad esempio a capire se è un problema di tensione, no? Magari abbiamo raffreddore, oppure tutte le tensioni che avvertiamo nella zona cervicale, oppure magari l'acufene può venire anche perché chiudiamo male la bocca. Certamente, allora ci sono due o tre diciamo manovre banali che ciascuno di noi può fare per avere un'idea grosso modo dell'origine del proprio rumore. Sì. Esempio, se estendendo il capo in avanti o indietro ci accorgiamo che aumenta, è probabile che ci sia una componente di tensione muscolare cervicale che sta giocando un suo ruolo. Sì. Se digrignando i denti ci accorgiamo che cambia, è probabile che ci sia una componente masticatoria. Se chiudendoci il naso e facendo quell'operazione di compensazione come i subacquei, a bocca chiusa, soffiamo il naso e sentiamo che per esempio non si aprono bene le tube, come succede quando andiamo in macchina che scendiamo poi dalla montagna per cercare di aprire, no? Facendo quei movimenti ci accorgiamo che non si apre l'orecchio e magari il rumore aumenta, ecco che è probabile che ci sia coinvolta semplicemente la tuba di Eustachio. Quindi questi sono piccoli autotest che possiamo fare per tranquillizzarci, perché molte persone di fronte a questo fischio, ronzio, insomma devo chiamarlo acufene, la definizione l'abbiamo già data più volte, si allarmano perché pensano subito a qualche cosa di grave, soprattutto se è intenso. Ma professor Guidetti, c'è una relazione tra intensità e gravità? Questo è fondamentale da dire, non è come per la febbre, che più sale la febbre più la malattia è grave. Diciamo che l'acufene non è proporzionato in genere alla gravità della malattia, quanto piuttosto al livello di tensione emotiva. Un soggetto più emotivo e più stressato, più non riesce a distogliere l'attenzione da quel piccolo fastidioso segnale d'allarme, più lo avverte. Quindi la prima cosa da fare è mettersi calmi e tranquilli, perché così già di per sé tende a diminuire il rumore. Noi oggi cercheremo di capire quando è sintomo, quando è inganno, così abbiamo cercato di impostare la trasmissione per rispondere anche a tanti ascoltatori che mi stanno scrivendo e mi dicono: è vero che gli acufeni possono essere un sintomo psicosomatico? Ci scrive Amedeo da Torino. Un ascoltatore dice: il mio ragazzo dice di soffrirne, ma credo che sia molta suggestione. Ma prima di fare questo distinguo andiamo a Milano, anzi restiamo a Milano, c'è Raul 824 0024. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di esistere e di trattare questo tema innanzitutto. A me è comparso esattamente 1 anno e 10 giorni fa in seguito a un'influenza. E adesso si è anche aggravato, diciamo, perché adesso lo sento anche nell'altro orecchio. Senta Raul, ma lei ha provato ad esempio, come adesso ha detto il professor Guidetti, a muovere il collo, a tapparsi il naso, a chiudere la bocca per vedere se peggiora o migliora? I movimenti diminuisce, a volte aumenta a seconda di come muovo il collo. E che cosa fa Raul per questo suo disturbo? Per il momento nulla? Come ha detto prima il professore, spesso e volentieri ci si sente dire dal proprio Torino che non c'è niente da fare. Allora, professor Guidetti. Sembra che Raul abbia poi le conseguenze di un'infiammazione, diciamo, alla tuba d'Eustachio, sembra la cosa più probabile da quello che sta dicendo, ovviamente. Perché lei dice perché gli è venuto dopo l'influenza, dopo il raffreddore. Quello è uno, e poi col fatto che con le manovre che abbiamo detto sentiva variarlo in modo significativo, quindi è probabile che giochi un po' il ruolo della pressione all'interno dell'orecchio tramite la tuba di Eustachio. Se così, tante volte ci sono delle soluzioni, oltre alla ginnastica tubarica ci sono gli aerosol da fare, le cure termali che aiutano di solito a risolvere questo problema. Qualche volta si ricorre anche a farmaci più, diciamo, importanti, tipo i cortisonici, ma dovrebbe essere abbastanza curabile da quello che dice, non credo che possa essere un grosso sintomo preoccupante. Perché la causa sembra abbastanza banale. Senta, la ginnastica tubarica non ne avevamo parlato, cos'è la ginnastica tubarica? Questo è carino, allora, ci sono intanto degli strumenti che aiutano a fare questa ginnastica tubarica, sono dei palloncini che si devono grosso modo, diciamo, gonfiare col naso. Detto così sembra una cosa complessa. Sì, no? Mi sembra impossibile. È un giochino abbastanza tranquillo che aiuta a creare le condizioni di pressione giuste tra naso e orecchio. E poi ci sono tutti degli esercizi che consistono in movimenti particolari della mandibola per arrivare a, come dire, a stirare la tuba d'Eustachio e facilitarne l'apertura. Sono esercizi che adeguatamente insegnati dall'otorino che se ne occupa o dalla logopedista, che tante volte se ne occupa anche lei, al malato, aiutano a, quando ci sono problemi di tipo tubarico, a riprendere una funzionalità normale e quindi anche a far scomparire il sintomo. Questo del palloncino, di soffiare il palloncino con il naso, sto pensando come si possa fare, però se lei mi dice che è semplice, ce la si fa. Va bene, allora posso farlo anch'io. Michele ci chiama da Ferrara, buongiorno. Buongiorno e buongiorno anche al professore. Salutiamo anche lui, Michele. Sì, io volevo fare una domanda, visto che ho sentito di parlare di rimedi. Io soffro da tanti anni di acufene, cioè sento questo ficchio e fischio nell'orecchio destro. Oramai le ho provate tutte, qui a Ferrara ho girato tutti i professori, insomma sono andato da vari otorini, però tutti mi dicono quello che ha detto il professore prima, cioè che ogni tanto dicono di tenere, di non pensarci, perché purtroppo non c'è più niente da fare. Senta, ma Michele, perché lei mi dice le ho provate tutte? Che cosa ha provato? Ma niente, sono andato da svariati dottori e ho fatto tante visite, tante analisi, ho preso anche medicine, però questo problema non sono riuscito a risolverlo. L'unica cosa è che durante la giornata il fischio non mi dà fastidio, perché con i rumori della strada, con il lavoro, e quindi io non lo sento. Sì. Però la sera, quando mi ritiro in casa o vado per andare a dormire, il fischio un inferno. Diventa infernale, e io ho adottato un sistema che una dottoressa ha detto che secondo lei è un sistema valido, cioè alla notte devo tenere la radio accesa, bassa, però devo tenere la radio accesa, allora mi addormento, se no. Se no, è un po' una terapia sonora questa, un po' rudimentale, professor Guidetti, no? Cercare di annullare questo suono con un altro suono. Chiodo, scaccia chiodo, come si diceva un tempo, no? Con i fidanzati. Sì. E si fa anche con gli acufeni. Ecco, no, non è sbagliato, è quello che gli hanno detto, mi sembra che sia assolutamente una cosa corretta. Se proprio non è stata identificata una causa e se non si è riusciti quindi a rimuoverla, bisogna cercare o di mascherarlo oppure usare delle tecniche diverse per insegnare al cervello a non ascoltarlo. Non è così facile, però si può tentare, insomma. Professor Guidetti, è proprio di queste tecniche diverse per rieducare in qualche modo il cervello, parleremo tra poco, ce ne sono tante, queste terapie sonore, parleremo anche di ipnosi, ci raggiungerà un esperto, e comunque dell'importanza anche del rapporto tra medico e paziente, perché voi medici potete insegnare al paziente a gestire questo disturbo, no? Assolutamente sì. Soprattutto tranquillizzandolo. Siamo tornati insieme al professor Guidetti, c'è Roberto che ci chiama da Mantova, Pierluigi della provincia di Biella e Angelo da Vicenza. Allora, Roberto, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a lei e al professore. Ci racconti? Il mio quesito riguardava naturalmente l'acufene e soprattutto volevo sottolineare che è più evidente dal lato destro che dal lato sinistro. E questo si accentua, secondo me, maggiormente quando io sono affetto da dolori cervicali. Sì. E quando c'è un'accentuazione dei dolori cervicali sento proprio un'accentuazione, anche un maggior ronzio. Ha fatto degli esami, Roberto? Sta facendo una terapia? Sì, ho fatto degli esami, no, terapia nessuno. Ho fatto degli esami, ma non risulta assolutamente niente. Io ho sentito parlare durante una trasmissione di farmaci nutraceutici, se ho detto bene, sì, il professore mi corregga, e quindi vorrei sapere se possono portare agli risultati positivi, ai benefici. Grazie Roberto. Professor Guidetti, tanti spunti dalla telefonata di Roberto. Lui ha detto che ha fatto ad esempio tutti gli esami. Quali sono gli esami base per? Poi andiamo ai farmaci. Ok, allora, per quanto riguarda gli esami, diciamo che sono indispensabili la valutazione clinica diretta da parte dello specialista dell'orecchio e delle zone limitrofe come il naso e la tuba d'Eustachio, sì, ovviamente un buon esame dell'udito completo con tutte le componenti necessarie oggi per essere moderni, e lo studio di potenziali vocati uditivi, cioè del filo che porta il segnale dall'orecchio al cervello. Fatti questi, si è già andati molto avanti. Altri esami come l'attacco, la risonanza magnetica sono necessari in alcuni casi, variano a seconda delle caratteristiche del disturbo del paziente, ma in linea di massimo non sono indispensabili. Roberto si è già fatto un po' una diagnosi, dice ho problemi cervicali e aumenta quando... Sicuramente ha due cause. Sì. E infatti non a caso dice ce l'ho soprattutto da un lato. Sì. Cambia in particolari condizioni di tensione emotivo-muscolare, quindi probabilmente ha due casi, un problema all'interno dell'orecchio e un fenomeno di amplificazione dovuto agli altri fattori che si associano. Quindi è già più complesso perché va affrontato... Su due fronti. Almeno su due fronti, sì. E questi farmaci? Ecco, non ho capito esattamente la definizione che ha dato del farmaco. Nutriceutici. Nutriceutici. E questo mi giunge nuova... forse per nutriceutici si intendono i farmaci, chiamiamoli così, nootropi, cioè quelli che hanno un'attività di sostegno del metabolismo delle cellule dell'orecchio, forse intendeva quello, tipo ginkgo biloba, tipo questi. Servono? Adesso vanno per la maggiore, hanno risultati qualche volta ottimi, qualche volta meno soddisfacenti, dipende sempre dalla causa. Non si può dire che siano farmaci risolutivi, possono aiutare a seconda delle situazioni. Quando aiutano questo? Ad esempio, il ginkgo biloba per quale tipo di acufene potrebbe essere utile? Intanto diciamo che se ci sono problemi cronici di sofferenza di tipo circolatorio, non so, un soggetto diabetico, un soggetto con ipertensione, un soggetto con altre malattie del sangue, insomma, colesterolo alto e via dicendo, può sicuramente usufruire anche di questo farmaco, che sì, oltretutto è anche un antiossidante, quindi in qualche modo rimuove la ruggine dalle cellule, oltre che migliorare la circolazione. Quindi tante volte al dosaggio giusto, non a caso, ci sono dei dosaggi precisi che vanno studiati caso per caso, con i dosaggi giusti, questo farmaco che è di moda ma è realmente anche attivo, insomma, può aiutare come antifarmaco. Ecco, per esempio, il contrario vale per l'aspirina, questo va detto. Sì, diciamolo. L'aspirina spesso si dice c'è un problema di circolazione, usa l'aspirina. Ecco, nell'orecchio no. Nell'orecchio è potenzialmente tossica l'aspirina già alle dosi molto piccole che si usa per esempio per la prevenzione dei disturbi cardiaci, già quelle dosi è potenzialmente tossico, quindi dovendo scegliere magari se ne usano altri. Quindi all'orecchio non piace l'aspirina? No, non piace proprio all'aspirina all'orecchio. Pierluigi dalla provincia di Biella, rapidamente andiamo alla domanda, buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno anche lei, ecco, ne approfittavo perché poco, e alla sera soprattutto quando rientro a casa dopo aver fatto la doccia mi siedo a tavola, un fruscio enorme proprio in tutte e due le orecchie, per un po', poi non ci faccio più caso, non lo so, non lo sento più, durante il giorno non lo sento mai, però sì, la sera soprattutto. Quando si mette dopo la doccia, quando va a cena. Tra l'altro, professor Guidetti, è un'indicazione per capire se sia sintomo o inganno il fatto di avvertirlo da una sola orecchia o da tutte e due? Se da una sola orecchia è più facile un sintomo, sì, che non un inganno. Da tutte e due, insomma, può essere tante cose, tra cui anche appunto l'inganno, diciamo così, per usare il nostro gioco di parole. Per usare il nostro gioco di parole. Un consiglio quindi per Pierluigi, che lo sente però in un momento preciso della sua giornata e poi forse se ne dimentica, forse qualche cosa si mette a tacere. In questo caso lei procederebbe con degli esami o gli suggerirebbe, non so, qualche regola di stile di vita? Qualche regola di stile di vita, tipo non far più la doccia e usare la vasca magari. Sì, perché potrebbe essere... Se veramente sono legato alla doccia, no, adesso a parte le battute che non lasciano il tempo che trovano, c'è da ragionare sulla esistenza, la coesistenza o meno di una ipersensibilità al rumore. Se per esempio la doccia fa rumore, e quindi può essere che sia un soggetto che abbia per qualche motivo un'ipersensibilità al rumore, che tante volte si associa alla sensazione di acufene ed è scatenato appunto da rumori esterni. Se così fosse bisogna indagarla a modo, perché possono esserci delle cause identificabili e rimovibili. Andiamo a Vicenza, ci aspetta Angelo. Angelo, buongiorno, e poi parliamo di terapie nel dettaglio. Angelo, benvenuto. Buongiorno a voi. Una domanda al professore. È un costante fisso ronzio su ambedue le orecchie, può essere legato in qualche maniera a una pressione arteriosa che ha dei picchi? Lei come sta con la pressione, Angelo? Se la misura? Ballerina. Ballerina. Professor Guidetti, una pressione ballerina può far fischiare le orecchie o ronzarle? Assolutamente sì, ed è anzi spesso e volentieri il primo segno di un piccolo problema di sbalzi di pressione. Certamente, sì. Allora, abbiamo giocato tra sintomo e inganno, abbiamo parlato degli esami da fare, l'importante è farli perché bisogna in qualche modo cercare di arrivare alla causa. Ma professor Guidetti, quando voi non trovate nulla dite che è un inganno oppure ci sono delle ragioni particolari per dirlo? Quando si sono escluse le cause più importanti e gravi con i dovuti accertamenti, entriamo nell'inganno del suono fantasma, no? Che è altrettanto fastidioso ma certamente meno preoccupante. Allora in questi casi i problemi da affrontare di solito sono stato ansioso, emotività elevata, tensione muscolare o qualche volta anche un semplice ricordo di un trauma acustico rimasto, diciamo così, nella memoria, come succede per esempio quando uno esce da una discoteca dove per alcune ore magari sente ancora un suono nell'orecchio fastidioso. Ecco, se questo fenomeno diventa molto prolungato, però il meccanismo può essere lo stesso, cioè una specie di memoria acustica. In questi casi chiaramente la terapia è diversa e richiede diciamo dei procedimenti che non sono quelli di un banale farmaco, per esempio vascolare, come nei casi che abbiamo detto prima. Insomma, bisogna affrontare i problemi in maniera un po' più complessa perché ci sono meccanismi in gioco ovviamente diversi. Il muscolare va curato in un modo, lo stato ansioso in un altro, chiaramente sono situazioni diverse. Allora proviamo a passarle in rassegna queste terapie, queste tecniche, e cercare di capire in quali casi sono indicati. In linea con noi ci ha raggiunto anche il dottor Antonio De Caria, buongiorno. Buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a tutti. Medico e specialista in audiologia, al Centro per lo studio e la cura degli acufeni all'ospedale di Piacenza, tra cui tra l'altro sì, tra le varie terapie applicate anche, fate anche l'ipnosi di cui parleremo. Ma dottor De Caria, nel suo centro, tra i vari modi con cui cercate di aiutare il paziente a superare il vostro problema, dedicate molto spazio al counseling. Cosa fate in pratica? Questo vale per tutti i pazienti che arrivano, vero? Sì, certamente. Noi il counseling lo utilizziamo con tutti i pazienti che accedono al nostro servizio. Ogni paziente viene introdotto un ciclo terapeutico di 5 sedute che sono seguenti alla visita iniziale, quindi. Il counseling è proprio un processo proprio relazionale che coinvolge sia il medico sia una persona che ha bisogno di essere aiutata, come può essere appunto il paziente che ha un problema di acufeni. Quindi noi ascoltiamo puntate molto sulla relazione tra medico e paziente, come sottolineava il professor Guidetti. Questo è importantissimo. L'intervento si fonda principalmente sull'ascolto delle richieste del paziente, sul supporto alle sue domande, proprio perché molte volte il paziente arriva da situazioni dove è stato poco ascoltato e quindi per noi è fondamentale ascoltare le sue richieste e dare le risposte adeguate alle sue richieste, proprio perché in questo modo si va a determinare proprio un cambiamento nella risposta emotivo-emozionale del sintomo e alla malattia stessa. Sentiamo che cosa ci racconta Duilio da Rimini, se è stato ascoltato dal suo medico. Duilio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai professori. Io di lavoro faccio il pilota, sì? Di aeroplani. Veramente? Sono controllato ogni 6 mesi, ho la visita medica, il mio udito risulta essere normale in tutte le frequenze, però ho un problema che quando inclino la testa verso sinistra e parlo, io mi sento rimbombare la voce, soltanto a sinistra. Professor Guidetti, Duilio da Rimini, che cosa può fare? Fa il pilota e ha questo rimbombo. Duilio da Rimini sembra avere un problema alla tuba d'Eustachio, mi pare che non sia una cosa particolarmente grave, va indagato in maniera diciamo attenta con l'impedenziometria, magari anche posizionale, per cercare di capire meglio cosa succede. Poi si fanno i test tubarici cosiddetti per capire appunto se funziona. Considerando che lui vola, non potrebbe, importante, sì. Perché sì, se non ha un aereo perfettamente pressurizzato, potrebbe avere poi anche dei fastidi non solo quando piega la testa. Quindi indagare con degli esami non sono invasivi gli esami a cui lei fa? Assolutamente no, vero? Come? Non sono esami invasivi? Non assolutamente. Assolutamente. Banalissimi. Va bene, banalissimi per arrivare alla causa. Siamo di nuovo insieme, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro dal titolo Auricoloterapia per ritrovare il proprio benessere con il massaggio dell'orecchio. Se volete ricevere a casa questo libro dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it col titolo del libro, i recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Un sms che ci arriva da Medeo, da Torino, che voglio girare subito ai miei esperti. Se con l'emotività gli acufeni aumentano, come si fa ad abbassare l'emotività? Vi prende in castagna questo sms o c'è qualcuno di voi che mi sa rispondere? Dottor De Caria. Beh, noi l'emotività la abbassiamo sicuramente con le nostre tecniche, anzi diciamo che il nostro obiettivo nel trattamento dell'acufene con tecniche di rilassamento e ipnosi è proprio quello, è proprio di limitare proprio la risposta emotiva-emozionale al sintomo stesso. Senta, dottor De Caria, mi faccia capire esattamente che cosa fate per usare l'ipnosi, in quali casi, perché ipnosi è una parola che ad alcuni spaventa, no? Sì, perché abbiamo delle immagini dai film un po' strane, ma in realtà voi che cosa fate e soprattutto che risultati state ottenendo? Certo, l'ipnosi diciamo che essenzialmente è una particolare situazione comunicativa tra una persona e il medico, no? Finalizzata proprio a un intervento terapeutico, quindi non è che facciamo show, per capirci. Sì. Ecco, questa situazione comunicativa fa sì che ci siano attraverso il linguaggio, attraverso l'utilizzo del linguaggio proprio terapeutico, delle metafore, come insegnava Milton Erickson, è finalizzata proprio a un intervento di tipo terapeutico e a controllare le tensioni stesse, le tensioni del paziente, e a far sì che ci sia un cambiamento, una ristrutturazione di quelle che sono le risposte del paziente al sintomo. Mi faccia un esempio, dottor De Caria, cosa dite? Ad esempio, se, sì. Chiaramente si parte quasi sempre con delle tecniche di rilassamento, cioè all'inizio l'ipnosi viene utilizzata esclusivamente come tecnica di rilassamento, proprio per far capire al paziente quali possono essere le differenze tra uno stato di tensione che lui in quel momento sta vivendo e uno stato di rilassamento che si attua durante lo stato di ipnosi vera e propria. Successivamente si vanno a attraverso questo processo di relazione che c'è tra il paziente e il medico, si vanno a ricercare quelli che sono gli stati maggiormente, le situazioni maggiormente stressanti per il paziente stesso. Certo. E con, durante lo stato di ipnosi o durante lo stato di rilassamento profondo, come io chiamo, proprio per evitare di utilizzare magari in alcuni casi la parola ipnosi, si va a lavorare proprio su queste situazioni cercando di modificare il punto di vista del paziente rispetto a queste situazioni stesse. Quindi facciamo esempio, se il paziente mi dice che ha paura di entrare per esempio in un supermercato perché questo gli può scatenare un acufene invalidante, un fastidio enorme. Voi lavorate su questo? Lavoro proprio sulla introdurre o far vedere la bellezza che circonda o che ci può essere all'interno di un supermercato stesso. Quindi cercate un po' di rompere questo circolo. Invece al professor Guidetti volevo chiedere, quando si parla di terapia sonora, ne abbiamo un po' accennato facendo la battuta chiodo scaccia chiodo, ma in pratica che cos'è? Fate sentire dei suoni, di che tipo, tutto il giorno, una seduta, che succede, per quale tipo di acufeni, quello di cui non riuscite a spiegare la causa? Principalmente sì, principalmente quelli di cui non si capisce la causa, di cui non si riesce a eliminare comunque la natura, la causa. Ce ne sono vari tipi, si arriva anche a delle situazioni un po' così quasi da ricerca, dove si suggeriscono particolari frequenze sonore o particolari tipi di suoni per alleviare. Diciamo che in linea di massima possiamo affrontarli in questo modo: ci sono suoni piacevoli in grado di distogliere l'attenzione dall'acufene. Allora, per esempio, un suono selezionato messo in una MP3, per esempio, no? Questi riproduttori, poi te lo tieni, deve essere piacevole per te, a bassa intensità, questo ti rilassa e distoglie l'attenzione del cervello, diciamo, dal rumore. Poi c'è un effetto mascherante, anche lì si possono selezionare delle frequenze, magari ecco, ci sono anche delle piccole protesi acustiche che hanno queste caratteristiche di mascherare. Mascherare significa impedire che si senta, in sostanza. Sì. Sono ovviamente dei tentativi intelligenti che vanno a lavorare sugli aspetti cognitivi della percezione sonora. Ovviamente hanno bisogno ancora di tanta sperimentazione prima di essere del tutto soddisfacenti, certamente. Però sono, per esempio, il discorso dell'MP3 o della radio. Come aveva suggerito il medico al nostro ascoltatore, se poi si ascolta Radio 24 è terapeutica comunque. Certamente. Certo, professor Guidetti. Allora, abbiamo passato in rassegna alcune delle tecniche, tra l'altro parleremo anche prossimamente di nuovo ancora degli acufeni, soprattutto per capire se qualche cosa si sta muovendo. Ringrazio il dottor Antonio De Caria, il professor Guidetti, per essere stati con noi. Grazie a tutte e due. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Ma prima di salutarvi, vi ricordate di quella canzone tormentone che diceva c'è da spostare una macchina? Bene, per spostarla però bisogna ricordarsi dove l'abbiamo parcheggiata. È naturale, no? Banale? Ma a volte questo ci mette un po' in difficoltà. A me succede ogni giorno e credo, almeno mi piace pensare così, che succeda anche ad alcuni di voi. Come mai siamo così distratti? Forse c'è una spiegazione. In linea con noi il dottor Lidio Miato, psicologo e autore di Allenare le abilità visuo-spaziali, Erickson Editore. Dottor Miato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Senta, dottor Miato, proprio ieri una mia amica mi ha detto: quando tu cerchi la macchina è la faccia di chi va a cercare funghi, possibile che tu non ti ricordi mai dove l'hai messa? E io dico sì, possibile, succede, come mai? Allora, dipende da, diciamo dal grado di sviluppo, da quanto abbiamo sviluppato le nostre abilità visospaziali. In questo caso dobbiamo avere una percezione globale della situazione e anche una percezione di dettaglio. Succede in noi che molte volte o abbiamo solamente soprattutto una percezione globale oppure una percezione di dettaglio, ma nell'un caso e nell'altro caso questo ci porta a non individuare più, per esempio, dove abbiamo messo la macchina. Ma in qualche modo possiamo recuperare, quindi allenare sia il globale che il particolare? Esatto, noi dovremmo cercare dei giochi, degli esercizi dove siano implicati sia l'aspetto globale sia l'aspetto particolare. Faccio due esempi, ecco, così per capirci. Sia nel gioco degli scacchi come in qualsiasi altro gioco da tavolo, no? Dama, tria, quello che vogliamo, noi dobbiamo avere la situazione globale di tutta la scacchiera, ma anche la situazione particolare che riguarda la pedina, come è posizionata rispetto a tutta la scacchiera. Sì. Ecco, giochi del genere ci allenano sia a prendere visione dell'intera scacchiera, sia anche di individuare la posizione esatta della mia pedina rispetto alle altre. È un po' quello che succede con la macchina. Io devo avere sia una visione del quartiere dove io mi trovo, o della via dove mi trovo, ma devo avere anche dei punti di riferimento tali per cui so che, per esempio, la macchina l'ho parcheggiata davanti a un certo negozio, per esempio, oppure a una certa porta che ha un certo colore particolare, oppure c'è un'insegna là vicino o altri elementi che mi sanno identificare. Dottor Miato, io la ringrazio, allora proveremo a tenere sotto controllo questi due aspetti, le farò sapere, se no la chiamo al mattino, sì, quando la parcheggio, dico in una via tale davanti al portone, perché poi magari uno si ricorda di questi dettagli al momento, ma poi li perde di nuovo e lì il problema, secondo me, non ha speranza, non ha soluzione. Diciamo che giocare con questi giochi da tavolo allenano queste abilità visospaziali e quindi attraverso il gioco io posso veramente potenziarlo, quindi basta in qualche modo, ecco, di divertirsi su determinati giochi e poi ne avremo un effetto benefico anche nella nostra vita pratica di ogni giorno. Allora cercherò di imparare a giocare a scacchi. Dottore, la ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, ascoltatori, arrivederci. E per oggi è tutto, vi do appuntamento domani come sempre dopo il GR delle 11. Non perdetevi, venite a trovarci.